ricordo ancora vivamente l'inarrestabile, sincero e affettuoso pianto di Nicole. Il rito funebre ormai era terminato. Avevano portato il feretro di mia madre al cimitero e, in composto silenzio, i convenuti, dopo aver dato l'ultimo saluto a mia madre, si accomiatavano. Erano presenti i soliti parenti, con i quali ci si incontra solo in simili occasioni, come anche alcune amiche di mia madre. Questi ultimi istanti di comunione erano sfruttati per chiedere le ultime notizie in merito ai figli, alla salute, allo svolgersi della vita. Mentre ero intento a rispondere alle domande semicuriose dei presenti, il mio sguardo si era posato su di una piccola figura in un angolo. Era Nicole, la mia nipotina, tra gli 8 e 9 anni, che singhiozzava più non posso, senza farsi notare e senza fare rumore. Lascio immediatamente il gruppo con il quale parlavo, prendo la mia nipotina e la conduco lontano dalle persone, nel prato ancora non occupato da persone che non sono più tra i viventi. Nicole piangeva veramente. Le do alcuni baci sulla guancia, per farle sentire il mio affetto, e poi, come se non lo sapessi, le chiedo: «Piangi per la nonna?» Scotendo la testa dall'alto in basso, Nicole accompagna tale gesto con un debole e soffocato: «Sì, poiché le lacrime non hanno parole e possono scaturire da tante ragioni, ho posto una seconda domanda, quasi inopportuna, ma tesa sia a voler alleviare la situazione, sia ad accertarmi del suo stato d'animo. Perché piangi, per la nonna?» Ma Nicole piangeva a dirotto. L'ho stretta, me a più non posso, le ho dato altri baci sulla guancia e ho aspettato che le acque si calmassero. La risposta di Nicole non si fece attendere. Dopo che si nasse, fu ripresa: «Piango per la nonna perché giocava a carte come me. Difficile spiegarlo, ma il mio cuore, addolorato per la perdita di mia madre, ricevette una ulteriore ferita e, nello stesso tempo, una inspiegabile consolazione. Una ferita, perché il dolore della separazione di mia madre aveva colpito anche Nicole, che a torto io, come nonno, avrei voluto fosse risparmiata. Una consolazione, perché sentivo la mia nipotina molto vicina al mio cuore, partecipe del mio dolore. Infatti, durante il funerale avevo visto tutte le persone sinceramente e profondamente addolorate, ma nessuna lacrima sui loro visi. La cosa era più che normale. Mia mamma ha lasciato questa terra, dei viventi a 91 anni, e a quell'età si possono anche chiudere gli occhi senza provocare profondi dolori. La mia nipotina piangeva. Erano le uniche lacrime esternanti testamento che ho visto al funerale di mia madre. Uniche come la mia nipotina Nicole. È vero che il mio unico figlio mi ha donato 3 nipoti e che, al momento del funerale di mia madre, Simone aveva quasi 16 anni, mentre Sara ne aveva quasi 15. Ma Nicole, rispetto al fratello e alla sorella, è diversa. Ben inteso. Siamo tutti diversi, perciò dire che uno sia diverso dagli altri non significa forse niente, ma una diversità esiste. Simone e Sara, fin da piccoli, incontrandomi, non mi salutavano. Quando andavo a trovarli a casa, la loro madre insisteva perché mi salutassero, ma ci è voluto un ostinato e prolungato ordine perché uscisse normalmente dalla loro bocca un debole e flessibile: «Ciao nonno». Per Nicole non ci sono voluti ordini dall'alto. Il saluto era sempre forte e spontaneo. Forse la diversità più marcata è dovuta agli abbracci. Se Simone e Sara non mi salutavano, quanto più era inesistente la loro affettuosità nei miei confronti. Nicole, fin da piccolina, di tanto in tanto, improvvisamente, mi saltava al collo e mi baciava. Ero ubriaco della stranezza, più che dall'affettuosità, perché un nonno si aspetta dai nipoti dell'affetto, ma dopo 2 nipoti che non mi avevano espresso il minimo sentimento di affetto, essendomi oramai rassegnato, è facile comprendere il mio smisurato e profondo stupore. Essere abbracciato dalla nipotina, cosa ci è di più bello? Essere abbracciato spontaneamente dalla nipotina, cosa ci è di più meraviglioso? Quelle braccine, che ti stringono affettuosamente, hanno il potere devastante di conquistare il cuore più insensibile. E se poi Uno ha un cuore sensibile come il mio. Apriti, o cielo. Inoltre, senza togliere nulla al valore di Sara e Simone, ogni volta che giocavo con Nicole, dalla mia nipotina ricevevo un «Grazie nonno», un atteggiamento in sintonia con la forma mentis della mia nipotina. Nicole è sempre stata diversa e, molto probabilmente, questo spesse volte ha indotto il mio cuore di nonno a giocare con lei, ad apparecchiare la tavola o a fare il bambino quando lei si fingeva mamma. Sono giochi apparentemente innocui, ma capivo che per lei erano importanti. Essendo la terza figlia e con una certa distanza di anni da Simone e Sara, aveva bisogno, mediante questi giochi, di sentirsi importante e di scaricare su di me l'autorità che le veniva imposta giustamente dai genitori e fratelli. Nicola ha sempre ricevuto tanto affetto dai genitori, ma come si sa, l'affetto non è mai abbastanza, e vedendomi sottomesso e obbediente nel mio ruolo di bambino, ne era gratificata sempre più. Per un nonno di quasi 70 il gioco è un poco barboso, ma un suo grazie nonno e, soprattutto, un abbraccio istintivo erano più che sufficienti a ripagare il tutto. Più persone, nel vederci assieme, hanno constatato come io e Nicole ci assomigliamo. L'evidenza della nostra parentela è palese a tutti. E l'unica dei tre nipoti ad avere gli occhi azzurri come me, come la sua nonna e i suoi genitori. E l'unica che possiede una firma molto simile alla mia, tendente in alto. A Nicole piace ballare e, più volte, mi ha chiesto se ballo con lei quando lei non sa che da giovane io ero un appassionato ballerino. Le piace cantare come suo nonno, che cantava continuamente. Una persona in particolare si ricorda di me quando andavo a lavorare in bicicletta e cantavo a squarciagola. Sono pochi i giovani che vanno a lavorare cantando dalla gioia e con il desiderio di lavorare. Proprio per queste caratteristiche affini tra me e Nicole, il pianto irrefrenabile di Nicole al funerale di mia madre mi ha toccato nel vivo, perché avrei voluto piangere anch'io con lei. Ma non potevo. Non potevo, non perché avessi paura di esternare la mia fragile umanità, ma in quanto quello era per me il momento di esserle di conforto e aiutarla. Nicole piangeva perché non c'era più colei, che le aveva dimostrato amore nell'aver giocato a carte con lei. Cosa recepiscono i bambini? Noi genitori e nonni ci diamo immensamente da fare perché i nostri figli e nipoti siano ben vestiti, perché abbiano giochi in abbondanza, perché abbiano tutto il necessario per mezzo del denaro. Mentre il bambino ha un bisogno disperato soprattutto della nostra presenza. Una presenza relazionale, non una presenza assente. Da adulti, i bambini non si ricorderanno del lettino nuovo, del vestitino fatto alla moda, dei giochi costosi, ma si ricorderanno di aver giocato a carte con noi. La bisnonna Lamberta più volte ha donato ai nipoti una buona cifra per il compleanno e ha regalato dei bei giochi, ma ciò che ha fatto piangere Nicole è stata la perdita della sua compagnia. Nicole piangeva per la relazione che era venuta a mancare, non per il denaro che non avrebbe più ricevuto. Ecco perché il pianto di Nicole mi ha maggiormente toccato. Che eredità lascerò a mio figlio? Che cosa si ricorderanno di me i miei nipoti? Certamente non i regali che ho fatto e forse neppure i molti insegnamenti morali dati. Nicole si ricorderà sì del gelato offerto, ma ancora di più del tempo trascorso con lei, sia nell'andare a comprarlo, sia nel gustarlo assieme, parlando di ciò che la riguardava. Il gusto di un gelato per sua natura passeggero si dimentica presto, ma una buona compagnia e una buona chiacchierata si possono portare nel cuore fino alla tomba. Chi di noi non si ricorda frasi e concetti ricevuti da bambini? Tra me e Nicole C. è un legame dovuto anche alla passione per la lettura. Con Simone e Sara ho spesso espresso il desiderio di leggere qualsiasi cosa, fiaba o racconto che sia, ma non ne volevano proprio sapere. Un rifiuto totale e deciso. A Nicole, quando ho proposto la lettura di una fiaba, si è illuminato il viso e mi è venuta in braccio tutta attenta all'ascolto. In più sapeva apprezzare i valori morali tratti dalla lettura commentandoli, una cosa non da poco. Di che dire, quando mi osserva, anche distrattamente e mi vede serio, chiede con un interessamento da grande che cosa hai, nonno. Grazie a questa simbiosi, credo proprio che per Nicole sarà difficile dimenticare il tempo passato con il nonno, e questo mi rende ancora di più responsabile di insegnarle dei valori eterni. Proprio per questo, uno degli obiettivi che mi pongo è lasciarle il ricordo di uno dei principi più importanti del cristianesimo: vincere il male con il bene. Il desiderio di vincere non è certamente un obiettivo né particolare né nuovo. Anche il diavolo, infatti, ha il desiderio di vincere nel suo conflitto con il male, come tutti i malvagi che vogliono ottenere successo nelle loro imprese. È allora questa eredità così particolare e nuova? Sta nel fatto che, mentre nella mentalità umana vincere significa trionfare, nel campo di Dio vincere significa umiliarsi, cioè una sconfitta apparente. Una verità non certamente nuova né sconosciuta anche questa, perché il cristianesimo, che scaturisce dalla parola di Dio, cioè dalla Bibbia, ha come fondatore, se così possiamo dire, un uomo che ha lottato tutta la sua esistenza contro il male e l'ingiustizia, per poi finire ingiustamente e implacabilmente crocifisso in croce. Purtroppo in genere, per quanto mi risulta, i suoi seguaci vogliono vincere il male, sì, ma trionfando, cioè salvando anche la loro reputazione e onore. Due cose inconciliabili. Poiché il cuore dell'uomo è sempre lo stesso, da Adamo in poi, nulla di strano. Ma sembra che nel XXI secolo un tale atteggiamento si sia accentuato. È vero che si parla e si predica l'umiltà e l'abnegazione, ma sono rare le persone che sanno ricevere dei torti senza farsi le ragioni, persone che sanno sopportare, cioè subire il male, persone che non rispondono né reagiscono al male, per amore del prossimo, Matteo 5.44, come hanno fatto tutti i veri credenti in Dio. Eppure ciò che è scritto è di una chiarezza disarmante. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei 12.12. Se riesco a lasciare l'eredità a Nicole e anche agli altri nipoti del trionfo medianuovo testamento L.A. sconfitta, non credo che ci sarà mai un nonno più felice di me. Settembre 2011. Ellero.